Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è la crisi, ne parlano tutti, in particolare qui su Radio 24. In questi due giorni potremmo proprio dire che non si parla d'altro, ma parlare di una cosa problematica è il primo modo per poterla affrontare. Troppe volte di fronte alle cose difficili intraprendiamo un duplice percorso che quasi mai ci aiuta: o ce ne lamentiamo in una sorta di litania che non fa che peggiorare le cose, oppure caliamo un silenzio assoluto, come se a non preferire parole le cose potessero migliorare. Buonasera. Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in questo momento c'è una grande crisi, c'è grossa crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo. Qua la gente non sa più quando stiamo andando su questa terra, qua la gente non sa più quando stiamo facendo su questa terra. Buonasera. Corto la parola. Sì, la parola di... Come la si parola di... Quello. Ah, ecco, quello. Ma lo sa che molta gente ci ha chiamato per saperne di più su questa nuova religione, è piaciuta. L'ho detto, c'è molta crisi, sì. C'è molta violenza, la gente ha bisogno di credere in qualcosa. Senta, ha ragione. Capito che è? Sì. C'è bisogno di parlarne. 800 24 00 24, parliamo insieme. Oggi noi vogliamo guardare la crisi in faccia, non per discutere risvolti, implicazioni sul bilancio economico di ognuno di noi e delle nostre famiglie, ma per capire qual è l'impatto che produce sul nostro equilibrio psico-emotivo. Perciò vi invito subito ad ascoltare questo breve test fatto di poche domande. Provate a verificare se a qualcuna di queste affermazioni date qualche risposta affermativa. Insomma, verificate quali si dite voi e in quale aree vi sentite più vulnerabili. In questi ultimi mesi le difficoltà economiche vi hanno causato problemi del sonno? Vi hanno reso più irritabili e vi capita più spesso di perdere la pazienza, magari anche per motivi futili? Vi hanno fatto sentire più deboli e meno desiderosi di intraprendere progetti e nuove iniziative? Vi hanno reso pessimisti rispetto al futuro dei vostri figli quando pensate a che cosa sarà di loro? Vi hanno fatto sentire in colpa per l'impossibilità di accontentare i desideri delle persone a cui volete bene? Se avete risposto sì a qualcuna di queste domande, forse potrebbe esservi utile entrare un po' più nel dettaglio, chiedendovi se vi è capitato negli ultimi mesi di svegliarvi di cattivo umore e non avere voglia di affrontare la giornata, di pensare con ansia e preoccupazione a che sarà del vostro futuro, di avere reazioni di rabbia con persone che non c'entrano nulla e delle quali poi vi siete pentiti, di sentirvi in crisi rispetto al vostro progetto di coppia. 800 24 00 24, restate con noi, parlate con noi, avremo molte cose da dirvi e consigli da darvi. Allora iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando, diamo alle parole il loro giusto significato. Noi usiamo la parola crisi, una certa idea di crisi, come giustificazione di qualcosa di ineluttabile che non riusciamo a fronteggiare, verso cui siamo impotenti. In realtà la parola crisi ci offre già una direzione, oso dire rassicurante. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Mazzucchelli, psicologo e psicoterapeuta a Milano. Buongiorno dottor Mazzucchelli. Sì, buongiorno, buongiorno. In effetti è vero, noi tendiamo a usare la parola crisi troppo spesso secondo un'accezione negativa. Questo nonostante il termine etimologicamente, sia in greco sia nel latino crisis, rimandi al concetto di scelta, ossia al momento che separa una maniera di essere diversa da un'altra precedente. È un fatto interessante che la stessa parola anche in altre lingue rimandi a questo significato. In cinese, ad esempio, la parola crisi è composta da due ideogrammi. Wei, il primo, che significa problema, il secondo però Ji, che significa opportunità. Ecco, questo è un fatto interessante perché anche appunto in italiano l'etimologia della parola crisi suggerisce un significato prevalentemente positivo, contiene un aspetto vitale che è quello della separazione, se vogliamo, però accompagnato sempre anche da un aspetto di crescita, ossia quello della scelta. La crisi non è un evento totalmente negativo, ma se esatto. Possiamo dire un momento di transizione che può essere anche un'opportunità di crescere. assolutamente, un'evoluzione, un cambiamento che poi in realtà siamo noi spesso a connotare negativamente. Epicuro diceva che non sono i fatti a turbare gli uomini, ma le opinioni che poi noi costruiamo intorno a loro. Ecco, se vogliamo vedere anche un po' l'evoluzione che la parola crisi ha avuto nel nostro uso linguistico quotidiano, come si è cambiata nel tempo, è proprio prova di quanto il pensiero di Epicuro fosse sensato da questo punto di vista. Quindi, dottor Mazzucchelli, il primo passo potrebbe essere quello di considerare la crisi come un momento dinamico di trasformazione, di passaggio da una situazione all'altra. Esattamente, e non necessariamente il passaggio da un qualche cosa di positivo a qualcos'altro di negativo. Prendiamo alcuni esempi, se volete, anche dalla vita quotidiana. Pensiamo alla crisi economica, no, di cui tanto si parla, e a come questa però, pur nella difficoltà e nella sofferenza per molte persone, sia stata anche capace di farci riavvicinare a una serie di valori molto importanti e quasi dimenticati, ad esempio quello del risparmio, per cui sono nate tutta una serie di iniziative, quali i gruppi di acquisto o i voli low cost. Ecco, quello che è successo è che in assenza di denaro ci siamo dovuti arrangiare in modo diverso, ossia cambiare. Si dice che chi non cambia sia destinato a scomparire, e credo che questa sia un'affermazione molto valida e importante. La crisi, oltretutto, non è soltanto la crisi economica, ma è anche la crisi individuale, quindi anche qui, se parliamo di psicologia e di crisi dell'individuo, le regole non cambiano in realtà molto, anche da quanto detto precedentemente, e dietro la crisi si nasconde sempre la necessità, che è anche un'opportunità, di cambiare per trovare un adattamento più funzionale alla situazione che viviamo. Ad esempio, pensiamo alla crisi adolescenziale, no? Nella quale ci siamo passati in mezzo tutti quanti. Nella crisi adolescenziale i cambiamenti fisici e ormonali ci impongono una trasformazione anche nel carattere, nella nostra psicologia e anche nel modo che noi abbiamo di relazionarci con gli altri. Sentiamo parlare spesso di adolescenti che si sentono perduti, no? Mi è piaciuto anche l'introduzione con quello di Guzzanti, il disorientamento e la confusione. Però dobbiamo chiederci che dobbiamo porci, se gli adolescenti non passassero attraverso questa crisi adolescenziale, potrebbero diventare ugualmente degli adulti maturi? Questa è una domanda aperta, nel senso che la crisi ci mette proprio in contatto con i nostri limiti, ce li fa vedere, ed è come se a un qualche livello ci comunicasse: così non puoi andare avanti, occorre fare qualcosa di diverso. Quindi nei momenti di crisi si impara più o meno rapidamente a destinare in modo intelligente le nostre energie. In senso lato. Assolutamente sì, e dobbiamo imparare davanti alla crisi di fare necessità virtù, non subire la crisi, ma sfruttarla come momento per reinventarsi, per ripensare alle proprie priorità e dare anche il giusto valore alle cose che ci circondano. L'idea da tenere in mente durante i periodi di crisi, ma non solo quelli di crisi, è quella di cercare di trasformare i vincoli in risorse, evitando di chiudersi quindi in uno stato d'animo rinunciatario che non ci aiuta certo a guardare oltre l'ostacolo. Grazie dottor Mazzucchelli per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e vi auguro un 2012 con la giusta quantità di crisi per poter cambiare. Grazie, buona giornata. Mi scrive Federica da Gallarate, vi voglio leggere il suo messaggio perché è così, è ricaricante. Grande gioia nell'ascoltarvi oggi in diretta a casa anziché in podcast per lavoro. Sto preparando i ravioli di Natale, vi mando un augurio di serenità e speranza, fiducia anche in questo tempo di difficoltà e prove. Un abbraccio forte, Federica. Beh, d'altra parte, proprio a Natale, in questi giorni che precedono il Natale, fare i conti con la crisi sembra ancora più faticoso, perché se i sacrifici investono anche le persone che amiamo, se le rinunce che dobbiamo fare coinvolgono anche i nostri familiari e i nostri figli, siamo invasi da dubbi, ci sentiamo imprigionati, impotenti. Che cosa fare? In linea con noi iniziamo subito ad avere una persona che ci dà una direzione, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, è ancora più faticoso capire come gestire le difficoltà economiche, le eventuali ristrettezze se si hanno bambini in famiglia. C'è chi deve ridimensionare il clima di festa, chi non può mettere sotto l'albero tutto ciò che è stato richiesto nella lettera per Babbo Natale. Sono molti gli adulti che per questo si sentono in colpa, e devo dire che mi ha colpito molto leggere sul giornale che in questi giorni è in crescita il numero di adulti trovati nei grandi magazzini o nei supermercati a rubare giocattoli elettronici o altre cose per i propri figli. È davvero questo il furto, il modo migliore per far fronte alla crisi economica se si hanno a casa figli? Ma guarda, quello che racconti tu effettivamente è un caso eclatante che ha colpito moltissimo anche me. Io gestisco una rubrica di lettere dei genitori su Famiglia Cristiana e proprio 2 settimane fa abbiamo dedicato a questo tema l'intera pagina, perché effettivamente sono arrivate molte lettere disorientate di mamma e papà che da una parte avevano i figli che in qualche modo continuavano a chiedere a Babbo Natale, a Gesù Bambino, insomma a fare richieste di Natale un po' con lo stile degli scorsi anni, e allo stesso tempo invece si trovavano di fronte genitori che non avevano più la medesima disponibilità economica degli scorsi anni ed erano molto molto disorientati, non sapevano che cosa fare, fondamentalmente si domandavano: ma io che genitore sono se in occasione del Natale non riesco a garantire ai miei figli quello spicchio di felicità che loro in qualche modo considerano un po' come un diritto? Ecco, secondo me questo passaggio è molto, molto importante, cioè se un genitore fondamentalmente arroga o associa, ecco, il proprio valore a ciò che consegna un figlio, a ciò che dà nelle mani di un figlio, all'avere di un figlio, fa un'operazione che è proprio un'operazione sbagliata, cioè per un figlio è molto molto importante ciò che un genitore è e non semplicemente ciò che un genitore gli dà, e secondo me questa è un'occasione straordinaria per far vedere ai nostri figli che non tutto sempre è perfetto, è come ce l'aspettiamo, cioè in qualche modo imparare a tollerare la frustrazione, a affrontare una situazione che è diversa da come ce l'aspettavamo, è molto molto educativo e secondo me è anche un'occasione per noi un po' per ricostruire la storia delle nostre famiglie. Tutti noi veniamo da nonni, bisnonni, a volte anche da genitori che per renderci la famiglia che siamo hanno dovuto davvero faticare tanto, hanno dovuto entrare nella vita in un periodo in cui la crisi economica, il non avere soldi, proprio a volte il non avere cosa mettere in tavola, fa parte proprio del DNA familiare di moltissimi di noi. Riaprire un album delle fotografie, richiedere ai nonni di raccontare cos'era il loro Natale, vedere comunque che straordinaria differenza c'è tra quel Natale e il Natale di oggi, anche se con molte meno cose, può essere molto molto utile per dare ai figli il senso della realtà. Ecco, io vorrei coinvolgere proprio su questo aspetto i nostri ascoltatori, invitandoli a chiamarci all'800 24 00 24, perché Alberto, quello che tu dici è sostanzialmente che abituarsi a fare a meno di un po' di superfluo può aiutare anche a ridare valore alla sobrietà, perché quando diminuisce il valore dell'avere torna a contare il valore dell'essere. Ma sì, io guarda, partirei proprio dall'esempio di genitori apparentemente così disperati che pur di mettere sotto all'albero di Natale quel regalo lì lo vanno a rubare. Ecco, qua è proprio aver perso la bussola, aver perso il principio logico che deve ispirare le cose che facciamo e che devono essere all'interno di un progetto dove noi continuiamo ad essere delle persone che siamo. Per cui, che genitore voglio essere? Quali sono i parametri che in qualche modo ispirano il mio stile genitoriale? Secondo me la coerenza, la correttezza e chiaramente la disponibilità, che è una disponibilità emotiva, non una disponibilità legata agli oggetti nei confronti di un figlio, ecco, questo è fondamentale. Ragionavo sull'SMS che ti ha mandato l'ascoltatrice di Gallarate, cioè il fatto che magari sulla nostra tavola l'anno scorso c'erano magari molte più cose comperate al reparto di gastronomia del supermercato, trovate già pronte, e secondo me trasformare sono decisamente molto più costose se le compri già fatte invece che se te le fai in casa. Trasformare questa cosa, dobbiamo spendere meno per il pranzo di Natale, però ce lo possiamo costruire un po' in casa, possiamo insieme ai bambini scegliere 2 o 3 ricette e ci mettiamo tutti insieme in cucina e la trasformiamo in un laboratorio della cucina. Io mi sento di dire che questo rende certamente molto più speciale il pranzo di Natale se avete bambini in casa e non lo rende assolutamente più povero o non ci fa vedere dai nostri figli come genitori peggiori. Molti dei nostri ascoltatori, Alberto, mi stanno scrivendo dei messaggi dicendomi a tutte le domande del vostro testo ho risposto sì, come ci scrive Raffaele da Salerno, sono da ricovero, insomma la crisi impatta. Andiamo a sentire la voce dei nostri ascoltatori. Salvatore da Como ci chiama all'800 24 00 24. Buongiorno Salvatore, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Io apprezzo molto i consigli del dottore che sta parlando adesso, ma non condivido quello che ha detto quello di prima. Ma dove viviamo? Se ci hanno detto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ma chi ha vissuto al di sopra delle possibilità? Non certamente gli operai, i dipendenti pubblici e privati, ma forse quelli che dicono queste cose. La gente si ammazza, si suicida, sono sulle torri, non riesce a andare in vacanza o a fare la spesa, andare al ristorante, in pizzeria e cose per consumare, che non ce la facciamo, e noi dalla crisi dovremmo trarre energie positive per sorridere, per stare meglio. Ma dove viviamo? Cioè, non si riesce a capire queste cose. Salvatore, io capisco assolutamente il suo discorso, cioè è difficile trovare nei momenti bui quella luce che molti invece invitano a trovare per resistere, per andare avanti. Alberto. Ma io credo che Salvatore poi incrocia su tutto il percorso che stiamo facendo anche un po' il concetto di ingiustizia, che è stato un tema molto molto forte nel raccontare la crisi negli ultimi mesi. Cioè le persone che hanno fatto davvero difficoltà si sono sentite raccontate da chi parlava della crisi in modo completamente differente dal loro vissuto. Credo che poi la frase probabilmente più eclatante è stata: i ristoranti sono sempre pieni, e naturalmente se una persona faceva fatica a portare sulla propria tavola di casa il cibo per la propria famiglia, proprio perché la crisi aveva battuto duro, questo ha suonato come una pugnalata. Per cui effettivamente quello che dice Salvatore è una grande verità, cioè in un momento di difficoltà il passaggio per poi reagire alla crisi è prima di tutto sentire che ciò che ci fa stare male, ciò che un po' ci fa soffrire, è valido, non è inventato, non è una fantasia che ci siamo fatti, e conseguentemente la prima cosa da dire è: questi sono tempi duri. Il collega che ha parlato prima di me però secondo me ci ha portato poi un gradino più su, ci ha detto: partendo dal dato di fatto che questa è effettivamente una situazione critica, noi abbiamo due possibilità: passivamente lasciarci travolgere dalla crisi come se fosse uno tsunami che pervade la nostra vita e ci lascia lì impotenti, oppure attivamente costruire una strategia che ci rende ciò che lo psicologo dice resilienti, cioè ci dà la possibilità di individuare un percorso in cui noi, nonostante la crisi, continuiamo ad essere, anche se abbiamo meno. Ecco, quella è un po' la via da tracciare, e quello è anche il motivo per cui, per esempio, ragionando su genitori e figli, insieme a voi io provavo a individuare delle cose molto molto concrete, magari molto piccole, che però aiutano a continuare ad essere le persone che siamo. Passetto dopo passetto, Alberto. Esatto. Voglio leggerti un messaggio di Davide che ci scrive da Verona. La crisi si potrebbe accostare alla dolcezza, bisogna trovare dolcezza dentro per trovare il dolce anche nella cosa più amara. E vado da Giovanna che ci chiama da Napoli. Buongiorno Giovanna, benvenuta. Buongiorno signora Nicoletta, io la seguo sempre con molta attenzione. Signora, che dire, ho sentito quella persona che mi ha preceduto, e che dire, è vero. Siamo tutti a terra, perché i soldi ancora ci sono, ma fra poco non avremo più niente, perché le tasse sono troppe, ma troppo pesanti. Le abbiamo sempre pagate tutte, io poi sono una di quelle che paga, oltre che sono rimasta vedova molto giovane con un figlio che ha lasciato un lavoro a tempo, a contratto determinato, e adesso non lo trova più. Per cui figlio a carico. Signora, devi anche pensare che con tutti questi drammi, con tutte queste cose, le paure perché vengono, lo stress è talmente che è forte che a un dato momento uno si sente male. Certo, paralizza. È la debolezza, ci sentiamo impotenti. La vita è quasi inutile. Alberto. Questo direi che però è proprio uno di quei modo di raccontare la crisi che catastrofizza un avvento avverso, cioè tutti noi nella vita dovremo entrare in momenti, in passaggi, in situazioni probabilmente inaspettate che non avremmo mai voluto e di cui soprattutto non ci sentiamo responsabili. Di cui non ci sentiamo responsabili e in qualche modo quello che viene richiesto a noi è capire se questa cosa deve prendere possesso della nostra vita e quindi in qualche modo ci tiene in scacco, o io posso agire concretamente, pensare concretamente, fare cose che concretamente mi fanno essere la persona che può controllare una situazione avversa. È chiaro che uno psicoterapeuta ti porta nella seconda direzione, cioè ti dice: anche quando il nero è il colore dominante, tu devi andare a cercare l'uscita, devi veramente vedere e sapere e pensare che tu puoi trovare una luce, tu puoi trovare un appiglio, e quindi andare in quella direzione può essere di grande aiuto. Uno dei consigli in concreto che mi sento di dare, anche e soprattutto a chi ha bambini e magari è in difficoltà per trovare regali da mettere sotto l'albero, non abbiate paura a chiedere aiuto, cioè nei momenti di crisi un concetto fortissimo è quello della solidarietà e della cooperazione. Ci sono molte persone nelle nostre comunità disposte a fare qualcosa per chi è così in seria difficoltà, soprattutto quando da tutelare sono i bambini. Solo che molte volte chiedere aiuto è davvero la cosa più difficile per molti di noi, non siamo abituati, ci sembra che chiedere aiuto significhi ammettere che abbiamo molto meno valore, molto meno potere, e invece è secondo me una delle fatiche su cui è bene lavorare. Maurizio dalla provincia di Milano, prima dei mercati, buongiorno a lei Maurizio e benvenuto. Buongiorno, senta, volevo solo così raccontare la mia esperienza, la mia filosofia. Ho 50 anni, 36 anni che lavoro e io di crisi ne ho viste più di qualcuna, no? E tutte le volte che mi trovo in questi momenti di crisi penso sempre che prima o poi finirà. Tanto se non ci posso fare nulla per cambiare, cerco di fare qualche cosa e trovare le cose belle e positive che ci sono nella famiglia, con gli amici, tutto qua. Perché voglio dire, probabilmente non siamo neanche più abituati a questi momenti qui. Sembra che tutto quanto deve sempre filare liscio. Nella nostra vita è normale, cioè, perciò insomma, bisogna prendere anche con un po' più di... Maurizio, voglio leggere l'SMS di Dario, che sposa la sua filosofia. La vita è un continuo scalare di montagne. Se si ridiscende a valle, si deve poi risalire dalla valle. Dario. Essere e benessere. Bisogna essere positivi. Il momento è brutto, però bisogna essere allegri, capito? Il momento è brutto, ma bisogna essere allegri. Un po' come una canzone triste, però ci metti una musica allegra, capito? Fammi una musica allegra. Perfetto. La canzone triste ce l'abbiamo. Allora, sentiamo, vediamo se stride. Allegria, ma canzoni tristi. Via! Quando sei cambierà. La crisi è vero, ci butta giù, ci rende infelici, ma gli italiani sanno su che cosa puntare, hanno più di un asso nella manica per resistere e alleviare quello stato di infelicità che la situazione socio-economica produce. A rivelarlo un'indagine realizzata per Yakult da Astra Ricerche, uno dei più importanti istituti di indagine sociale e di marketing. In linea con noi abbiamo il presidente, il professor Enrico Finzi. Buongiorno. Buongiorno a Carbone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, le cose non vanno bene. Agli italiani lo dicono circa 7 su 10 nostri connazionali, quasi il 70%, e il pessimismo per il 2012 predomina un po' contro il nostro carattere nazionale, quasi per 6 italiani su 10. Ma questo non vuol dire disperazione, anche se per alcuni la situazione è obiettivamente o diventerà obiettivamente molto grave. Non vuol dire disperazione, perché troppo spesso dimentichiamo che noi italiani, anche divisi in tante staterelli, per millenni abbiamo vissuto in condizioni pessime, corsi da eserciti stranieri nella fame, nella miseria finiera, eppure siamo riusciti a mantenere, perfino a incrementare, una certa soddisfazione esistenziale. E quello che sta capitando, e che io prevedo che capiterà l'anno prossimo, ce l'hanno detto i nostri connazionali. È vero che il 70% è pessimista, ma è vero anche che il 78%, cioè quasi 4 italiani su 5 dai 15 anni in su, dice potremo farcela o almeno attutire la crisi ricorrendo a qualcuna delle nostre vecchie arti e magari aggiungendone di nuove. Che sono, professor Finzi, quelle che lei definisce tendenze extramercato, quindi non si parla di soldi? Sì, quando mancano i soldi, cosa fanno gli italiani? Fanno quello che dicono che faranno, indicando una sorta di decalogo che adesso descrivo brevemente, che in parte è fatto di elementi, come dire, regressivi della tradizione, i quali sono lo stare in famiglia, lo stare con i figli e con i nipoti, il dedicarsi alle amicizie, all'amore, meno curiosamente al sesso. E questo è tradizionale, oppure cercare di godere delle cose che non si comprano, visto che i soldi sono meno, appunto, i piaceri extramercato, non oggetto di transazione commerciale. Però si aggiungono adesso, in questa sorta di decalogo dei nostri connazionali, il 78%, anche delle attività nuove, non della tradizione, pensare, riflettere, innovare, dedicarsi alla solidarietà nei confronti degli altri, in qualche modo sostituire elementi non materiali a quegli elementi materiali di cui oggi si avverte la carenza, che magari si aggraverà nel 2012. Quindi, professor Finzi, pensiamo positivo? Sì, pensiamo positivo, anche perché uno degli elementi del decalogo dell'osservatorio Yakult è anche quello di occuparsi di wellness, di benessere, e di prevenzione, di qualità della vita, di sana ed equilibrata alimentazione, insomma di esercitare un po' di equilibrio in una situazione certo squilibrata. Grazie professor Finzi, buona giornata. A voi, a lei e agli ascoltatori, arrivederla. Ci dimentichiamo a volte la nostra vita interiore, come no? Noi finora abbiamo scommesso sulla nostra parte più bassa, no? E ora bisogna scommettere su quella più alta, è venuto quel momento là, tornare un po' come i bambini, no? Esatto. Ogni felicità è una forma di innocenza, capito? Ricordarsi che questo mondo non è che ce l'abbiamo in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli, quello è. Però se dovessi dire una cosa, che è nella natura delle cose che quando ci sono momenti difficili bisogna stare insieme. È la cosa che sappiamo dall'Ecclesiaste, davvero, no? Due sono più di uno. Voglio ringraziarvi perché mi state mandando dei messaggi molto ricaricanti che ci aiutano a fare delle riflessioni a voce alta ed andare avanti. Donato da Ravenna mi scrive: non siamo più abituati alle crisi. Primo, non siamo più abituati a chiedere aiuto nei momenti di bisogno, vero? E forse purtroppo non siamo più abituati nemmeno a darlo aiuto. Bisognerebbe riscoprire i valori veri della famiglia e degli amici da non usare solo per andare a giocare a tennis. L'unione fa la forza e uniti occorrerà uscire. Intanto si è unita a noi la dottoressa Sara Viola, medico e psicoterapeuta. Dottoressa Viola, buongiorno. Buongiorno a tutti. In linea con noi c'è ancora Alberto Pellai. Alberto, ci sei ancora? Eccomi qua. Benissimo. E voglio leggermi anche un messaggio di Stefano da Udine. La crisi può servire a capire quali sono le priorità della vita, capire cosa è necessario e cosa è superfluo. Chi come me ha visitato paesi veramente poveri lo ha assimilato bene. Stefano da Udine, ed andiamo a Milano, anzi stiamo a Milano, con Emanuele. Buongiorno Emanuele, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Niente, un piccolo intervento breve, ma credo che gli SMS che avete appena ricevuto concentrino un po' tutti i miei pensieri, quindi vabbè, sono padre di famiglia, due bambini, sono l'unico lavoratore, ma vedo molto bene il 2012, forse perché sono stato fortunato durante l'anno. Comunque il commento è un po' alle chiamate degli ascoltatori di prima, che bisognerebbe un po' perdere, secondo me, la cognizione del, appunto, dell'avere, no? Comunque la crisi sentita con questa disperazione per la mancanza di soldi, quindi di mezzi, magari andare a riscoprire semplicemente, tornando anche al discorso di chi ruba al supermercato il videogioco, il balocco, quello che sia, non è cibo, semplicemente accontentarsi del sorriso del bambino felice, o comunque ritrovarsi in famiglia o darsi una mano tra amici se non ci sono le risorse necessarie, organizzare un pranzo o una cena e dire io porto un pezzo, tu ne porti un altro, e coccolarsi così. Parlandone sì della crisi, cercare di affrontarla con un po' di positività. Grazie Emanuele. Né più né meno. Grazie a voi. Luca, ho tre figli, lavoro in bilico, ma dico a tutte tranquilli che se non mi tagliano le braccia il modo di campare lo trovo. Dottoressa Viola. Eccoci qua. E mi sembra proprio un buon incipit quello del nostro ascoltatore, nel senso che cerchiamo di non fare retorica, la crisi c'è ed è giusto essere arrabbiati, preoccupati, insomma anche un po' indispettiti, però non dimentichiamoci che l'uomo, l'essere umano, conosce le sue risorse quando deve affrontare delle difficoltà. Nei momenti di serenità certo si sta meglio, anche se non sempre si è consapevoli della fortuna che si ha in quei momenti, delle volte si dà per scontato, si danno per scontate tante cose. Bene, arriva un momento di crisi, l'io che cosa fa? Ha un primo momento in cui si abbatte e poi chiama a raccolta le sue forze, le forze fisiche, le forze emotive, le forze spirituali, tutto quello che non sa di avere nei momenti di tranquillità. Quindi il nostro ascoltatore dice, finché ho due braccia le posso utilizzare, e questo è verissimo, se poi non ci dimentichiamo che le nostre braccia fanno catena, fanno anello con le braccia degli altri. La risorsa fondamentale nei momenti di crisi, di qualsiasi crisi si tratti, è la relazione. Mio nonno mi raccontava che durante i bombardamenti loro giocavano a tombola nella cantina della casa aspettando che gli aerei nemici lasciassero il cielo. Bene, gli altri noi ce li dimentichiamo troppo spesso nei momenti in cui stiamo bene e quindi ci sembra che bastiamo a noi stessi, e invece proprio negli altri, nella medesimezza, nel fatto di essere insieme, nell'affrontare una crisi, ci si ritrova. Essere e benessere. Riprendiamo con una frase di Leonard Cohen che ci ha mandato Chris con gli auguri di Buon Natale. In ogni casa c'è una crepe, da lì che entra luce. Alberto. Sì, direi che ci siamo. Si possono proprio vedere le cose con due approcci, che sono da una parte quello del bicchiere mezzo vuoto e dall'altra quella del bicchiere mezzo pieno. Chiaramente in tempo di crisi, se vogliamo fare ricorso alle risorse che ci sono dentro di noi e che citava la dottoressa Viola, ci conviene molto di più cercare in una crepa la luce che il buio o la frattura. Dottoressa Viola, però Omar da Biella mi scrive: sono allibito dai vostri discorsi demagogici e buonisti, stiamo iniziando a pensare come cittadini dell'Europa dell'Est post-sovietica, ma noi siamo l'Italia, ci stiamo impoverendo, perdiamo potere d'acquisto e dovremo anche essere contenti? Beh, ma questo è il discorso, cara Nicoletta, che io mi sento fare tutte le mattine dai miei pazienti che hanno un'inclinazione depressiva, i quali mi dicono: ma lei cosa ci trova di positivo in questo momento? È facile dire che le cose vanno male quando ci sono delle difficoltà, è facile sedersi e dire è finita, che rabbia, non è meno demagogico questo di quello che dicevamo noi prima, anzi è molto più scontato, è molto più istintivo, ma non sempre la prima posizione, quella istintiva, è quella che ti aiuta di più. Anche perché nelle difficoltà, se ti abbatti e continui a vederne soltanto gli aspetti negativi, vieni travolto e non riemergi. E non è vero che dalle difficoltà non si esce, è vero il contrario, dalle difficoltà si esce sempre, persino dalle malattie gravi si esce sempre. Se, permettetemi di dirlo, l'io desidera davvero tanto venirne fuori. E questa non è retorica, attenzione, è un grave errore pensare che questo sia un discorso retorico, perché pensando in questo modo non si ha la reazione che supera la rabbia, l'abbattimento, lo sconforto che sempre si hanno nei momenti di crisi, senza permetterci di arrivare a guadare, ad arrivare oltre l'ostacolo e a superare il problema. Io credo che chi è uscito da una guerra, chi è uscito dalle carestie, chi è uscito dallo tsunami, dalle pestilenze, non lo ha fatto dicendo beh oramai è finita, mi metto qui, aspetto il fato. Lo ha fatto dicendo va bene, io faccio la mia piccola parte, gli altri fanno la loro e la catena ne viene fuori. E ne viene fuori. Gli italiani continuano a essere generosi nonostante la crisi, non rinunciano all'aiuto per gli altri, alla fiducia nella ricerca. Voglio darvi una buona notizia in questo momento in cui sembra che tutti siano così stretti nelle loro difficoltà e nei loro pensieri negativi. La maratona Telethon ha raggiunto quest'anno cifre da record. In linea con noi abbiamo la dottoressa Francesca Pasinelli, che è direttore generale Telethon. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono molto contenta di dare questa notizia perché è un segnale assolutamente positivo. Appunto, sì, siamo quella, molto contenti anche noi perché, devo dire la verità, alla vigilia non ci contavamo proprio perché il momento è un momento delicato, di crisi, anche gli umori sono quello che sono, però noi abbiamo chiuso con una cifra superiore ai 30 milioni di euro che per la verità è leggermente inferiore a quella dello scorso anno, ma è sostanzialmente uguale, diciamo, ecco. E questo è il frutto di milioni di donazioni, perché solo di telefonate abbiamo ricevuto più di 2 milioni di telefonate e questo è sicuramente un dato molto importante, c'erano decine di migliaia di volontari nelle piazze, è evidente che gli italiani non solo sono generosi, ma davanti alla proposta di famiglie, di pazienti che si sono mostrati indicando il loro bisogno e di ricercatori che hanno mostrato in tutta la maratona televisiva gli enormi progressi della ricerca che tra l'altro stanno anche dando lustro all'Italia nel mondo, ebbene tutto questo ha riscosso ancora una volta diciamo l'accoglienza degli italiani e mi sentirei anche di dire se posso che il numero 45502 è attivo ancora fino a domani, quindi coloro che volessero ancora partecipare possono dire la loro anche in questi ultimi due giorni. Grazie dottoressa Pasinelli, grazie, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Un ascoltatore non si firma, mi manda un messaggio di Goethe, una frase di Goethe: quando l'ombra è più nera è perché la luce è più viva. E vado da Barbara che ci chiama da Modena. Buongiorno Barbara. Buongiorno a tutti, a lei e ai suoi ospiti. E niente, volevo portare la mia esperienza riguardo a questo argomento dicendo che io sono d'accordo con i vostri interlocutori perché io ho un bimbo di 3 anni e mezzo, è piccolo e anche lui ha giochi regalati da nonni e così, però ci accorgiamo io e mio marito che la cosa più importante è che lui vuole giocare con noi, cioè non è tanto il giocattolo che utilizza, magari prende un oggetto facendo finta, oppure non so, prende un oggetto di casa, un cucchiaio, fa finta di, però la cosa importante è che lui ci chiede mamma, papà, giochi con me, quindi anche tanti giocattoli alla fine non rendono il bambino felice quanto la nostra presenza. Certo. E poi anche un piccolo consiglio che posso dare un po' alle mamme, così quando ha tanti giocattoli io glieli nascondo per un mesetto dentro la così mano, sono sempre nuovi, sono fuori, è nuovo, che bello, e torna a giocarci a rotazione, questi giochi spariscono e quando escono sono nuovi. Grazie a Barbara, andiamo a Marino da Milano e poi a Paolo da Brescia rapidamente prima di chiudere, vediamo se hanno dei messaggi ricaricanti o degli spunti di riflessione. Marino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Pronto, sono in linea? Sì, Marino, in linea con noi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ospiti in studio. Io volevo dire solo semplicemente una cosa, che questa crisi mondiale sarà un'opportunità per gli esseri umani per aprire le coscienze e per capire effettivamente quali sono le vere priorità della vita. Anche perché finché non cade il mattone in testa la gente non si sveglia. Io credo che non sarà una cosa negativa, ma sarà una grande opportunità per l'intera umanità. Grazie a me. Sono effettivamente ottimista sotto questo punto di vista, perché non la vedo come una vera calamità. Quindi, una grande opportunità. Una grande opportunità per Marino e per Paolo da Brescia all'800240024. Chiudiamo, abbiamo 30 secondi. Paolo, mi dia un messaggio ricaricante. Sicuramente io lo lascio un messaggio positivo perché parto dalla mia esperienza personale. Secondo me non esiste una crisi che non si può superare, o quasi, perché l'ho vissuto personalmente da tre anni a questa parte, e secondo me la crisi è un modo per, come dicevano i professori anche di prima, di riscoprire la propria interiorità, io sono convinto, cioè per lavorare su se stessi, per crescere personalmente, per diventare anche più forti, e però è un modo anche per me per liberarsi di cose che non servono, perché abbiamo tanti oggetti, tante cose materiali che non ci servono, e la crisi serve anche a questo, secondo me, a capire quello che realmente ci serve e a riscoprire anche un po' più i rapporti interpersonali, meno gli oggetti, meno certo. Le cose futili, secondo me. Più l'essere che l'avere. E noi oggi ci salutiamo, ringrazio la dottoressa Sara Viola, il professor Alberto Pellai per essere stati con noi, in regia la parte tecnica Carmelo e Laura Vanossi e Miriam Lucchetti in redazione. A domani.